Il punto di Stefano Folli. Con le riforme ancora tutte da approvare e l'Expo milanese è tuttora un punto interrogativo, si veda la polemica aspra e tutt'altro che secondaria tra Maroni e Renzi, il Quirinale resta il punto di equilibrio del sistema. Lo è anche oggi che il Premier è più forte grazie al seguito che si è conquistato fra gli italiani. Più forte ma con un percorso a ostacoli davanti a sé, di qui all'autunno del 2015 almeno. In questo scenario le dimissioni del Presidente della Repubblica diventano qualcosa che forse il Paese non può permettersi, non in questo momento o fra pochi mesi, secondo la volontà originaria di Napolitano. Si sta ricreando lo stallo che portò poco più di un anno fa il Parlamento a votare il secondo mandato dell'attuale Capo dello Stato, una circostanza eccezionale per un'Italia priva di un saldo punto di equilibrio in attesa delle riforme. Oggi quelle circostanze, diciamo pure quell'emergenza istituzionale, non sono state superate e la Repubblica sembra avere ancora bisogno di Napolitano.